Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi vi parlo di uno dei libri che veramente mi è piaciuto di più negli ultimi mesi. Si intitola Sofia si veste sempre di nero, l'ha scritto Paolo Cognetti, pubblicato da Minimum Fax. È una serie di racconti, sono una decina di racconti che in realtà però costituiscono un romanzo, perché la protagonista è sempre la stessa, Sofia, anche se cambiano a volte i punti di vista, il narrante, il modo di osservare questa ragazza, questa protagonista. Allora Paolo, innanzitutto perché hai scelto questa forma del racconto, che poi ti è congeniale, tra l'altro tu avevi già scritto delle raccolte di racconti, e però hai deciso di farne una sorta di romanzo? Primo perché è la mia forma, io vengo da lì, ho sempre scritto e letto racconti, e credo che in questo ci sia una particolare visione dello scrittore di racconti, e cioè un'idea che la realtà si possa raccontare solamente per frammenti, mentre il romanzo ha una grande ambizione, che è quella di raccontarla in modo organico, unitario, di dare una visione del mondo. Il racconto ha un'ambizione più piccola, che è quella di cogliere un pezzettino di verità. E quindi l'idea era di raccontare Sofia, che è la protagonista di questo libro, attraverso delle tessere di un mosaico che alla fine forse ci faranno vedere chi è lei veramente. Sì, perché poi è come dire, mettere una telecamera da diversi punti di vista e seguire la vita di questa ragazza, che poi vedremo, insomma, una ragazza molto particolare con molte problematiche. Tra l'altro i racconti in genere non sono mai andati di moda in Italia, vanno meglio, si vendono meglio nel mondo anglosassone, insomma abbiamo degli esempi perfetti, vabbè, uno per tutti, Carver, insomma. Anche la tua scrittura è piuttosto netta, insomma, con frasi precise, puntuali. A chi ti sei ispirato, insomma? Sì, io vengo proprio da lì, nel senso che amo tanto la letteratura americana, e in particolare quella dell'Ovest, quindi sono meno legato per esempio alla tradizione dell'Est newyorkese, che è una scrittura più ricercata, quasi europea. Quella, chiamiamola dell'Ovest, cioè quella che va da Sherwood Anderson a Hemingway a Carver, è una scrittura che persegue la semplicità. Non significa dire cose facili, ma significa riuscire a trovare una lingua semplice per dire cose complesse. No, sono d'accordo su questo, nel senso che la tua scrittura sicuramente non stanca, cioè si vede che è ricercata, si percepisce che è precisa, puntuale, però non complessa nell'approccio. Allora, veniamo alla protagonista, Sofia. Io prima ho detto che, insomma, ha un po' di problemi questa ragazza. Ce la puoi descrivere così a grandi linee? Sofia soffre di disturbi alimentari, per parecchi anni nella sua vita è quasi un'anoressica, verso i 16 anni tenta suicidio, ma in una maniera molto teatrale, forse non ci credeva davvero tanto neanche lei. Litiga con tutti, quando non litiga con qualcuno va a letto con qualcun altro, ha una sessualità così abbastanza confusionaria, ma molto passionale, e dice quasi sempre di no, crede che sia possibile raggiungere la felicità adesso, quindi non lavorare per realizzare un ideale, che è quello che fanno i suoi genitori, che sono cattolici, e sua zia, che è comunista, ma in un senso così punk. Io sto male adesso e voglio essere felice adesso. E infatti sulla quarta di copertina c'è scritto proprio questa frase: io voglio essere felice adesso, che ho trovato veramente bella, insomma, ben augurante anche come frase. Sicuramente Sofia è un personaggio complesso. La cosa che mi è piaciuta molto di questo libro è che tutte queste cose che tu hai detto di lei, che hai raccontato, anche per esempio il tentativo di suicidio, si scoprono lentamente attraverso la narrazione di episodi che apparentemente non sembrano collegati. Come hai proceduto proprio alla scrittura dei vari racconti? Sì, questo perché secondo me raccontare, scrivere una storia è esplorare uno spazio, cioè non è avere già in mente come andrà a finire, né tutte le svolte della trama, e poi piano piano seguire quell'idea che hai avuto all'inizio, ma trovare un punto di partenza che è una porta. Come la porta di una casa, questa è un'immagine a cui sono molto legato, che viene da Alice Munro, e entrare in quella casa ed esplorarla un po' alla volta. Questo lo fa lo scrittore e lo fa anche il lettore quando poi entra in questo libro. Quindi è così spezzettato, e ogni racconto è un po' l'introduzione di un personaggio nuovo, di uno spazio nuovo, proprio perché era come aprire un'altra porta e scoprire il padre di Sofia e la sua vita all'Alfa Romeo, la zia di Sofia e il suo rapporto con la lotta armata, eccetera, eccetera. Ecco, tu hai citato diversi aspetti adesso di Sofia che andiamo ad analizzare. Dicevamo, Sofia è questa ragazza molto problematica che innanzitutto ha un rapporto difficile con i genitori. La madre è una donna che sembra apparentemente depressa, cioè sembra vivere un po' fuori dal mondo. Ma più che depressa, lei aveva un'ambizione artistica che è stata sospesa da questa gravidanza di Sofia. E nella sua testa, in qualche modo, Sofia è stata l'ostacolo che le ha impedito di realizzarsi. Questo non viene mai espresso così chiaramente, però è l'origine del conflitto tra loro due. Da lì in poi lei ha sempre una gran paura di scegliere, di fare cose per sé, di fare cose rischiose. Tutto quello che riesce a fare è rinchiudersi in questa villetta in cui vanno ad abitare lei e la famiglia e accumulare cose, curare il giardino, curare i mobili, diventare una brava cuoca. Tutto in quella casa diventa l'espressione della sua personalità, ma anche della sua paura di uscire da quella casa. Sì, tanto lei è un'accumulatrice, insomma, prima dicevo depressa nel senso che non vive nella realtà, sembra vivere una sua realtà parallela. Sì, e infatti a un certo punto del libro questa casa esplode, proprio perché è quasi questo accumulo della vita di Rossana che non riesce più a essere contenuto lì dentro. Anche il rapporto con il padre è piuttosto conflittuale, il padre sembra insomma un uomo abbastanza freddo, distaccato. È un padre che per tanti anni è molto lontano da Sofia, non hanno molto a che fare uno con l'altro. È un padre che ha una vita segreta, perché passa la maggior parte del suo tempo, ma non solo il suo tempo, dedica la sua passione al suo lavoro, così come è normale, credo, in tanti uomini. Quindi si realizza fuori di casa, si realizza in fabbrica, all'Alfa Romeo, la sua passione lì, e dopo un po' anche quasi una vita sentimentale parallela lì dentro. E Sofia di questo soffre. A un certo punto, a 10 anni, le danno un tema in classe, parla di tuo padre, lei scrive: io mio padre non lo conosco, se posso preferirei parlare del mio cane. e da lì in poi Roberto, che è il padre di Sofia, ci lavora un po' su a riavvicinarsi a questa figlia. Un po' quando è adolescente, anche se è difficile, molto quando lei ha 20 anni e lui si ammala, allora lì la malattia li avvicina. Come spesso succede nella vita. Altro personaggio che mi è piaciuto moltissimo è la zia Marta, una zia di Sofia che diciamo ha preso parte alla lotta armata, ricordiamo sono gli anni 70, la fine degli anni 70, e in questo personaggio sei riuscito in qualche modo a far entrare la storia con la S maiuscola, come si dice sempre, nella storia con la S minuscola, nel senso che ha introdotto il tema delle lotte sindacali, ma anche dell'eversione, insomma. Sì, senza questa, cioè non sarei mai riuscito a farlo pensando adesso voglio raccontare la lotta armata a Milano o la storia dell'Alfa Romeo. Riesco ad arrivarci solo passando attraverso le persone. Quindi questa zia Marta è ispirata a una persona che io conosco bene. Avevo una gran voglia di raccontare lei, perché per me scrivere soddisfa anche questo bisogno importante di dire ai miei amici che gli voglio bene. E quindi facendone il ritratto, poi sì, la storia è confluita dentro. È come se fosse una storia vista però sempre da dentro le case. Come se queste case, questi privati delle persone attraversassero la storia con la S maiuscola e io la vedessi da lì dentro. Mi riferisco anche a un altro libro che tu hai scritto che si intitola Manuale per ragazze di successo. Adesso ne hai scritti altri, però adesso questa Sofia si veste sempre di nero. Ormai si dice che Paolo Cognetti scrive solo di donne. Perché? Perché mi piacciono un sacco. Però le capisci evidentemente, cioè riesci a raccontare la loro intimità. Ma infatti mi piace proprio parlarci, non solo baciarle, diciamo così. Poi forse le idealizzo ogni tanto, però penso che ci sia questo grande coraggio che io associo al femminile, che è quello di affrontare le crisi in maniera aperta, non vigliacca, coraggiosa. Quando una donna attraversa un momento di crisi nella sua vita, di solito manda tutto per aria e ricomincia a fare qualcos'altro, non ha paura di chiudere. Mi sembra che il maschile sia molto più portato in quella situazione lì al compromesso, alla bugia, al tenere tutto sotto al tappeto. A volte la donna fa questo di esplodere e mi piace molto. Beh, con questa frase sicuramente ti sarei conquistato tutte le lettrici donne, insomma, io sono stata conquistata dai libri di Paolo Cognetti. Ci sarà un momento in cui scriverai anche della psicologia maschile? Credo che sia lì che mi aspetta questo momento. Insomma, il prossimo libro avrà almeno un protagonista maschile positivo. Dovreste vedere la faccia di Paolo Cognetti. In radio non si può vedere, però ha fatto un'espressione come a dire, bah, vedremo. No, insomma. Il problema è proprio che parlando di donne riesco ad avere un'eroina e sono sempre delle eroine le mie protagoniste. So che arriverà il momento di parlare di uomini e non credo che sarà un eroe, ecco. Ecco, e allora aspetteremo anche il prossimo libro di Paolo Cognetti. Per il momento potete leggere questo libro che veramente io ho trovato bellissimo. Si intitola Sofia si veste sempre di nero, pubblicato da Minimum Fax. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate su Facebook e anche su Twitter come Ale Teddina. Un saluto da Alessandra Tedesco.